Tenendomi ferma, mia madre mi gridava di stare zitta, di vergognarmi. Mi divincolai dalla sua presa. Ormai ero un fiume in piena, carico di rabbia e di disprezzo. «Pensi che non lo dirò, suo marito? E voi non vi siete accorti che si ubriaca tutte le sere? L'hanno già portato due volte al commissariato perché era stato coinvolto in risse a mano armata. E queste cose non infangano l'onore della famiglia?» Questa volta due ceffoni mi raggiunsero le orecchie facendomi di nuovo un gran male, ma non placarono la mia rabbia. Mi sentivo male nel corpo e nello spirito. Avevo perso tutte le mie speranze e lacrime calde continuavano a sgorgarmi dagli occhi. Poi sentii lo Yalla di mio padre Agajun. Non aveva mai abbandonato l'abitudine, anche se in casa non c'erano altre donne oltre a noi della famiglia, di annunciare la sua presenza ogni volta che rientrava. «Che cosa ti hanno fatto?» Si avvicinò e mi aiutò a sedermi. Poi tirò fuori il fazzoletto e mi pulì la bocca dal sangue. «Chi ti ha conciato così?» Le lacrime ripresero a scorrermi sulle guance. «Disgraziato, vigliacco senza vergogna! Alzi le mani anche sulle donne adesso!» «Ma bene! Ora sono io quello dalla parte del torto!» disse mio fratello Ahmad. «Ma chi se ne frega? Io non ho più una sorella. Che si faccia toccare e insozzare da chi vuole, tanto il danno è fatto e ormai siamo disonorati!» Mio padre cercava di difendermi da Ahmad, che mi si stava scagliando addosso ancora una volta. «Le tue parole non si addicono a Masumè. La sua preside ha detto che non c'è ragazza più educata e pura di lei in tutta la scuola!» Mio fratello più piccolo, Ali, appena rientrato, diede manforte ad Ahmad. «C'è dell'altro!» Con uno scatto Ali prese la cartella e ne rovesciò l'intero contenuto. Le lettere caddero a terra dai libri che Ali scuoteva con violenza. Ahmad le afferrò tutte con un solo gesto e ne aprì subito una. Lesse con voce scossa dall'emozione della vittoria. «Gentile signorina, il mio cuore è uno specchio coperto da un velo di tristezza che voi sola potrete soffiare via con un semplice sorriso. Glielo faccio vedere io un sorriso che non si scorderà più, educata e pura come il suo stesso nome. È così che avete detto, Agajun?» Guardai mio padre con timore e vergogna. Era diventato così pallido e le sue labbra tremavano così tanto che mi spaventai. Sussurrando appena mi disse: «È così che mi ringrazi. È questo ciò che mi merito. Hai mantenuto proprio bene la tua promessa, per non parlare del mio onore.» Quello sguardo e quelle parole erano molto più pesanti e dolorosi di tutte le botte che avevo preso e mi trafissero il cuore come un pugnale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal romanzo di Parinush Saniè, Quello che mi spetta. Garzanti Editore, 432 pagine, €19,60. Dopo aver cercato negli ultimi anni di far riemergere i lati più oscuri della guerra civile italiana, Giampaolo Pansa si dedica nel suo ultimo libro ad un'altra operazione di revisionismo. Ripercorrendo i 40 anni di storia della Prima Repubblica, cerca di capire se fosse davvero così diversa dalla Seconda e se non sia il caso, magari, di iniziare a rimpiangere i politici di una volta. E lo fa partendo dal suo ricordo personale di quelli che lui chiama i cari estinti, personaggi che nella maggior parte dei casi sono usciti definitivamente dalla scena politica, anche se non proprio tutti erano politici di professione. Contro ogni previsione, Ilona Staller, detta Cicciolina, venne eletta deputata per i radicali nella lista dei federalisti europei. E quando entrò per la prima volta a Montecitorio, ci rendemmo conto di una verità che riguardava la sua arma principale, il sex appeal. La Staller ne aveva meno, molto meno, della pornostar che l'accompagnava, Moana Pozzi. Fu quest'ultima la stella del 2 luglio 1987, giornata inaugurale del 10° Parlamento. Alle 15:25 apparve la Staller, con al seguito un corteo di pornostar, fantastico, tutte in bicicletta e tutte con le tette al sole. La più affascinante e misteriosa era davvero Moana, 26 anni, 9 in meno di Ilona. Che splendore Moana! Vinceva 5-0 sulle altre compagne di sfilata, Ramba, Hula Hoop, più altre innominate. Ebbe inizio un pomeriggio indimenticabile, strip in pubblico di Moana e Company per mostrare quel poco che non si vedeva, esibizione trionfale di tette quasi sempre extra large, poliziotti angosciati, granatieri immersi nel sudore, grida, spinte feroci, sangue sul viso di un cameraman, aria da Luna Park di quart'ordine, fastidio per il santuario democratico così oltraggiato. Ma il vero spettacolo stava in piazza Montecitorio. Femministe separate e sempre più incazzate, porno star in rinnovata esibizione, giovani missini urlanti slogan per una camerata in carcere, unione inquilini fuori di sé e intenta a fare caciara, demo proletari inneggianti a un referendum non ricordo più su che cosa. Sì, meglio ripararsi nei passi perduti. C'ero appena entrato quando una voce imperiosa mi ordinò: «Pansa, voltati!» Era Luigi Firpo, il mio vecchio professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino. All'età di 72 anni era stato eletto deputato repubblicano nella circoscrizione Torino-Novara-Vercelli. Era di ottimo umore e mi fece sedere accanto a sé. Mi disse: «Sei stato uno studente scrupoloso e vedo che fai con scrupolo anche il mestiere del pennivendolo. La leggi la mia rubrica sulla stampa?» «Certo che la leggi. Ma se anche non la leggessi, mi risponderesti di sì. Adesso che ti ho pescato voglio apparire nel tuo pezzo per Repubblica. Sei d'accordo?» «Certo, professor Firpo», gli garantii un po' intimorito. «Mi dica la sua prima impressione da deputato e io chiuderò il mio articolo con le sue parole». «Ottimo!» esclamò Firpo. «Allora scrivi. Qui a Montecitorio siamo in tanti, tantissimi. E io provo un senso di assoluta superfluità. Se anche ci mandassero a casa 9 su 10 non se ne accorgerebbe nessuno». Furono le parole che pubblicai. Ma il professor Firpo me ne disse altre, molto più pesanti, che non ritenne di stampare. Sentite un po'. «La metà dei deputati e anche dei senatori sono dei ladri, nel senso che fanno politica grazie alle tangenti incassate da loro o dai partiti che li mandano in Parlamento. Tutti i partiti vivono sulla corruzione, tranne noi repubblicani, forse, perché siamo troppo piccoli, e i missini, esclusi dal gioco perché sono fascisti. È un sistema perverso che dura da anni, ma non resterà in piedi ancora per molto. Basterà che un magistrato faccia il primo passo, catturi il primo tangentista e lo mandi in galera. Allora succederà come nel gioco del domino. Caduta la prima tessera, ne cadrà subito una seconda e poi verrà giù tutto. Tu lo racconterai su Repubblica con una gioia feroce. Vedrai cadere nel fango tanti dei politici di professione che segui da anni. E ne sarai felice, sai perché? Perché voi giornalisti siete gentaglia, iene, sciacalli. Vi piace vedere scorrere il sangue, l'odore della morte vi eccita. Più di questa nuova deputata, la pornostar, come si chiama? Cicciolina. È una donna che un signore della mia età e della mia esperienza non guarda neppure. Ha conosciuto ben altre bellezze, il tuo vecchio docente di Palazzo Campana». Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giampaolo Pansa, I cari estinti, faccia a faccia con 40 anni di politica italiana. Garzanti Editore, 522 pagine, 22 euro.